di lucidità. Non ricordi più chi eri. Sogno realtà, sogno realtà, sogno realtà. Qual è la verità? Trattato come un bambino, manipolato nella mente. Non sbagliare il destino. Riuscivo a concentrarmi. Sì, ne ero al corrente. Sentivo dentro di me come un fremito. Sì, procedi. Ho commesso molti errori. La mia compagna si comporta in modo molto strano. Non la capisco. Procedi. Ieri notte non mi sentivo molto bene. Sì, lo so. Lei si sentiva bene? Sì. Procedi. Avevo bisogno di aiuto ieri notte. Sentivo come se qualcosa... Eccellente. Qualcosa di strano mi stesse accadendo. Sì. Ma non capisco. Non puoi essere più specifico? I sedativi... Prendo l'entrazen, ma non è abbastanza forte. Non riesco a concentrarmi. Tu sei un vero credente. Benedizione dello Stato. Ti prego, aiutami. Benedizione delle masse. Tu sei un soggetto della divinità, creato a immagine dell'uomo, dalle masse e per le masse. Lascia pure essere noi ad occuparci dei tuoi problemi. Lavoro duro, aumento di produzione, prevenzione degli infortuni. E tu? Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Sei felice. Se torni sotto sedativi, non sentirai più niente per me. E mi denuncerai per mancata assunzione di droga. Ho un oscillatore MB da installare al prossimo turno. Non ce la farò se sto come adesso. Senti. Non posso smettere, non ora. Lo so che non posso. No, puoi farcela senza l'entracene. Puoi farcela, lo so che puoi. E poi cosa? Non potremo andare avanti così, lo sai. Potremmo andarcene. Vivere nella superstruttura. Ti resta solamente un turno, non è così? Saremo già fuori prima che inizi un'altra sequenza. Che cos'è questo? Devo vedere S&N. Mi hanno appena cambiato turno. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Devo vedere S&N. Devo vedere S&N. Mi hanno appena cambiato turno. Mi hanno appena cambiato turno. Mi hanno appena cambiato turno. Mi hanno appena... Quando? Oggi. Oggi? Vuole che vada su da lui. I cambi di turno non sono di sua competenza. Perché dovrebbe vederti? Non lo so. Non andare. Devo andare, è un G34. Non sei costretta. Non mi fido di lui, dovresti fare rapporto. No. Non creiamo problemi. Non è niente. Allora perché tiri fuori l'argomento? Non sono stata io. Aspettate con pazienza. Mi hai chiesto tu del foglio. Favorite il lavoro delle squadre di pulizia utilizzando gli appositi contenitori. Non ingombrate l'accesso. Finirai per metterci lì, guai. Aspettate. Io non ho fatto niente. Mi ricevi? Il livello dell'attività nel settore M. Non capisco. Controllo. Puoi vedere se mi riceve? Puoi confermare. Che cos'è questo? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Devo vedere S. Devo vedere S. Mi hanno appena cambiato. Mi hanno appena cambiato. Mi hanno appena cambiato. Mi hanno. Mi ricevi? Il livello dell'attività nel settore M. Non capisco. Controllo. Puoi vedere se mi riceve? Puoi confermare? Mi ricevi? Il livello dell'attività nel settore M. Non capisco. Controllo. Puoi vedere se riceve? Puoi vedere se conferma? Thank you. Thank you. Approaching the verso la libertà sta per lasciarmi. Prima che il mio corpo sia disintegrato dai miei inseguitori, voglio lasciare un messaggio telepatico perché i miei posteri possano conoscere la mia vera storia. La storia iniziò nel lontano luglio del 2002, 270 secoli fa. Alcune radiazioni solari determinarono la deflagrazione contemporanea di tutti gli ordigni nucleari costruiti dall'uomo. I pochi superstiti si rifugiarono in profonde caverne, unici luoghi non contaminati dalle radiazioni. E là iniziarono la ricostruzione del loro mondo. Uomini di tutte le razze giurarono solennemente che mai più ci sarebbe stata guerra e si dedicarono alla costruzione di un mondo perfetto. Ma la perfezione non è dell'uomo. La perfezione è solo nella macchina costruita dall'uomo. Perciò era la macchina che doveva regolare la vita dell'uomo. E l'uomo costruì il robot. L'uomo costruì robot sempre più perfetti. E il robot fu tanto perfetto che cominciò a costruire l'uomo e a controllarne ogni suo atto. L'uomo voleva un mondo dove fosse bandito il male e l'infelicità. E il robot costruì un uomo asettico, scevro dal male e dall'infelicità. Ma l'eliminazione del male è l'eliminazione del bene, in quanto l'uno è la contrapposizione dell'altro. Già l'essere supremo aveva costruito un paradiso terrestre nel quale l'uomo visse finché non sentì che solo avvicinandosi all'albero del bene e del male avrebbe trovato il male, ma anche il bene e la felicità. Non so perché questo sentire in questo mondo sia toccato a me e perché ho dovuto cercare questa felicità nel mio corpo alla disintegrazione. Forse il mio nome non è quello posto sulla provetta nella quale fu costruito. THX1138. Forse il mio vero nome è Adamo. Un po' più indietro, THX1138. Per un secondo. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Devo fuggire. Non so cosa troverò fuori, ma devo fuggire. Devo fuggire, devo fuggire, devo fuggire, non so cosa troverò fuori, non so cosa troverò, devo fuggire, devo fuggire, devo fuggire, devo fuggire, non so cosa troverò fuori, non so cosa troverò, devo fuggire.